Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Siamo ormai alle ultime puntate della nostra trasmissione per questo 2012 e chiudiamo questa settimana che per molti è stata di vacanze, per altrettanti è l'anticamera di altri giorni di festa in occasione del Capodanno. Gli ultimi giorni di dicembre si prestano bene a tracciare bilanci su molti fronti, compreso naturalmente anche quello dei mercati finanziari che tanto spesso osserviamo e commentiamo proprio in questa trasmissione, anche perché molti hanno collocato il proprio risparmio in azioni, in borsa, in obbligazioni e quindi chissà in quanti hanno preso carta e penna proprio in questi giorni per fare due calcoli e cercare di capire quanto si aveva ad inizio anno e quanto adesso c'è nel gruzzolo risparmiato. Ci sono stati momenti difficili in questo anno che si sta chiudendo, qualcuno ha anche temuto per il proprio risparmio e anche questa volta, come ci sta ripetutamente capitando da qualche anno a questa parte, con l'arrivo di un nuovo anno si spera che sia quello della svolta, del cambiamento, della ripresa. E allora sarà così per questo 2013, come sempre ci sono previsioni più rosee e altre più pessimistiche. C'è da dire che Piazza Affari sembra davvero essersi tranquillizzata negli ultimi mesi di quest'anno. Certo, ci sono le incertezze politiche con la campagna elettorale alle porte, ci sono le problematiche di un paese che non riesce a tornare alla crescita, un paese che naturalmente combatte ancora con un debito pubblico altissimo e che proprio nelle ultime settimane ha sfondato la porta dei 2.000 miliardi. Oggi, con l'aiuto di un gruppo di esperti, cerchiamo di fare qualche considerazione sull'anno passato e qualche previsione su quello che verrà, dandovi, speriamo, consigli utili per la cura del vostro risparmio, tema che peraltro è anche la storia di copertina di Plus 24 in edicola domani con il Sole 24 Ore. Allora vi chiediamo come sempre di commentare con noi tutto questo, potete chiamarci per intervenire in diretta all'800 24 00 24, come escono i vostri risparmi da questi 12 mesi, con le ossa rotte oppure hanno tutto sommato tenuto. Scriveteci anche al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter siamo su @salvadanaio24. Ho terminato con gli indirizzi, posso cominciare con i saluti. Marco Lo Conte, Plus 24, il Sole 24 Ore, buongiorno, buone feste, buon anno. Buongiorno, però buongiorno siamo qua. Tutti. Quanti microfoni vuoi? Ce n'hai due davanti a te, sei un po' protagonista. Auguri oggi. Auguri a tutti. Grazie, auguri Marco, ci presenterà appunto questa indagine condotta per Plus 24 di domani, ne dico la domani con il Sole, tra un gruppo piuttosto nutrito di gestori e naturalmente primarie case di investimento. Poi avremo anche le loro testimonianze, le loro considerazioni dirette. Con noi stamattina Stefano Gianti, analista di CMC Markets. Gianti, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. A Gianti ho fatto fare un esercizio molto interessante perché gli ho chiesto appunto di così immaginarsi un po' come un piccolo risparmiatore italiano e di ipotizzare un piccolo portafoglio investito all'inizio dell'anno, 1.000 euro che hanno puntato o sulla borsa, sul mercato obbligazionario o su una borsa internazionale o su Piazza Affari o su qualunque altro tipo di mercato, ci deve raccontare che cosa è diventato questo gruzzoletto adesso. Abbiamo anche con noi Fabrizio Fiorini, direttore investimenti di Aletti Gestiel SGR. Fiorini, bentornato anche a lei. Buongiorno. Ci sente più volte disturbato anche nel corso dell'anno da parte nostra, soprattutto in tutte le occasioni in cui c'era da parlare della situazione critica del debito italiano, delle aste di titoli di Stato che tutto sommato sono andate tutte in porto, come quella appunto di questa mattina di cui vi abbiamo raccontato nel giornale radio, ma abbiamo avuto dei momenti piuttosto difficili appunto per il tesoro italiano. Proprio un anno fa, lo ricordava in questi giorni il Sole 24 Ore, nel dicembre del 2011 il tesoro, per piazzare 2,5 miliardi di BTP a 3 anni, pagò un rendimento record, drammatico lo ha definito il Sole 24 Ore, dalla nascita dell'euro, il 7,89%. È stato il periodo appunto in cui si invertì la curva dei tassi di interesse, perché i titoli di Stato a breve termine rendevano molto di più di quelli a più lunga scadenza. Più tardi poi ci collegheremo con Giampaolo Bazzani, amministratore delegato di Saxo Bank per l'Italia, che ci racconterà quali sono le 10 previsioni previsioni shock per il 2013 che ogni anno questa banca danese specializzata in trading ed investimenti online si cimenta appunto nell'elaborazione, sono effettivamente previsioni shock. Però siccome abbiamo imparato che questo mercato negli ultimi anni ci ha fatto prendere confidenza anche con le circostanze che mai avremmo pensato di dover affrontare, allora forse è anche bene sapere che sul mercato qualche circostanza estrema si può verificare, quindi almeno le sappiamo e ne prendiamo appunto ci prendiamo le misure da queste situazioni. Vi ho ricordato tutte le modalità per intervenire in diretta, però adesso diamo anche un'occhiata a questa giornata di borsa. La giornata è nervosa, la giornata è negativa, gli occhi sono puntati naturalmente sugli Stati Uniti, sulla crisi fiscale americana, con la Camera dei rappresentanti che ha annunciato una riunione straordinaria proprio per domenica, mentre oggi pomeriggio il presidente Obama incontrerà i capofila del Congresso per tentare di trovare un accordo, raggiungere un accordo che eviti in extremis il fiscal cliff, il baratro fiscale. Magari stamattina torneremo per la 5.000.000esima volta a spiegarvi in che cosa consiste questa circostanza terribile, che non è tanto estrema, in verità non è tra le 10 previsioni shock di Saxo Bank, che si potrebbe manifestare appunto se non venisse trovato un accordo politico negli Stati Uniti. Oltre a guardare chiaramente agli Stati Uniti, c'è anche da dire che il mercato oggi è negativo perché magari si chiudono molte posizioni, gli operatori vogliono andare in vacanza e trascorrere le giornate di Capodanno tranquilli, e quindi chiusura anche perché il mercato in dicembre è andato abbastanza bene. Milano perde lo 0,67%, Parigi meno 0,80%. Qui abbiamo avuto il dato sul prodotto interno lordo del terzo trimestre, c'è stata una revisione a ribasso da parte dell'Istituto di Statistica francese, quindi oggi un po' il mercato francese è penalizzato anche da questo. Parigi, l'abbiamo detto, Francoforte meno 0,48, Londra sulla parità, oltre un punto di ribasso per la piazza spagnola. La borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,7% stamattina, che porta più 23% il bilancio dell'intero 2012, quindi un buon andamento per appunto la borsa nipponica, che è stata spinta soprattutto dal deprezzamento dello yen e dall'attesa per un nuovo piano di rilancio dell'economia da parte del nuovo governo di destra guidato da Shinzo Abe. Euro su dollaro a 1,3172, i migliori titoli di Piazza Affari: Autogrill più 0,58, Luxottica più 0,36, Campari più 0,26, Lottomatica più 0,23%. Si esaurisce presto la lista dei titoli positivi a Piazza Affari, è molto più corposa quella dei titoli negativi. Cali più forti: Mediaset meno 2, Banco Popolare meno 1,82, Enel meno 1,63, Diasorin meno 1,40, e poi le banche stanno scendendo quasi tutte con ribassi di oltre un punto percentuale. Questo perché anche se l'asta del tesoro di stamattina è andata bene, i tassi sono ritornati a crescere leggermente, anche lo spread stamattina a quanto pare ha intenzione di chiudere l'anno sopra i 320 punti base. Questo è il quadro della mattinata, noi però oggi riparliamo appunto di mercato con un raggio temporale più complessivo, guardiamo indietro agli ultimi 12 mesi, cosa è successo in questo 2012, soprattutto cercheremo di fare qualche prudente e timida previsione anche per il prossimo anno. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Sai che quest'anno, negli ultimi mesi, Marco Loconte e Salva Danaio ha deciso di così un pochino colorare le proprie trasmissioni accompagnandole con qualche colonna sonora che non ci fa mai male, ci alleggerisce un po' la pressione anche, e chiaramente abbiamo scelto la canzone più giusta per questo tema, Lucio Dalla, L'anno che verrà, chissà che sorprese ci riserverà dal punto di vista finanziario, perché chiaramente dobbiamo anche osservare come vanno i mercati, visto che molte famiglie lì collocano il proprio risparmio. Naturalmente questi gruzzoletti che quest'anno si sono anche erosi non poco, perché le famiglie italiane si sono cimentate anche in questa nuova esperienza, quella di andare ad attingere ai risparmi del passato, una circostanza nella quale forse in molti non avrebbero mai potuto e voluto pensare appunto di trovarsi. Detto questo, raccontaci un po' e dacci qualche anticipazione su questa storia di copertina di Plus 24 di domani, ultimo numero dell'anno peraltro, con questa nuova versione totalmente rivoluzionata da qualche settimana in edicola. Sì, ormai vabbè, il quarto numero, o il quinto numero anzi, di il nuovo formato, il restyling di Plus, che ha cercato di venire incontro anche alle esigenze della dei lettori che ci chiedono maggior chiarezza, maggiore ariosità negli articoli, nei pezzi, nei grafici. Insomma, stiamo cercando di dare sempre ogni settimana qualcosa in più, qualcosa di più interessante, di leggibile, di accattivante, insomma, per il lettore che vuole cercare di capire cosa fare del proprio denaro. Hai colto il punto nevralgico un attimo fa, Deborah, su come il mondo sia cambiato ormai. Lo sottolineava qualche tempo fa nella Giornata Mondiale del Risparmio il rapporto Acri-Ipsos e sono più gli italiani che attingono alle proprie riserve per le necessità correnti che quelli che riescono a risparmiare. Ossia, sono più quelli che decumulano che quelli che cumulano. Sono sempre di meno quelli che riescono a risparmiare. È la crisi, e purtroppo è la coda della crisi finanziaria, si ripercuote in una crisi economica che si ripercuote poi nelle scelte di portafoglio. Domina la prudenza sotto tutti i punti, sotto tutti i punti di osservazione, ma è una prudenza che, come emerge anche dal nostro sondaggio, ha dei lati negativi, tra virgolette. I rendimenti dei titoli extra sicuri, super sicuri, sono negativi in termini reali, cioè rispetto all'inflazione, e a volte anche in termini nominali. Su di tutti il grande rappresentante che è il titolo di Stato tedesco, no? Il Bund. E quindi sicurezza, il fatto che la sicurezza equivalga a perdita sicura è un concetto assolutamente nuovo per chi deve avere a che fare con i propri soldi, soprattutto coloro i quali che negli anni 80, negli anni 70 hanno visto inflazione a doppia cifra e rendimenti dei bot a doppia cifra, oggi si trovano su un pianeta diverso. Siamo su un altro pianeta e dobbiamo cercare di orientarci. Conoscerlo bene intanto e poi affrontarlo, navigare in questo nuovo mare. Abbiamo comunque utilizzato uno strumento consolidato, che è il Forum dei Gestori, che quest'anno tocca la 17ª edizione. E per cercare di capire l'anno che verrà come sarà fatto e come orientarci in questo nuovo mondo, e le indicazioni sono interessanti perché, insomma, è un anno che sotto alcuni aspetti, sotto molti aspetti, è stato incoraggiante, colmo di riprese per quanto riguarda i mercati, i BTP che sono cresciuti parecchio in termini di valore, è sceso il rendimento, è salito il prezzo, le azioni sono cresciute in maniera rilevante, gli indici più 8, più 9%, quindi diciamo che c'è un momento di tranquillità. Il punto è che fa più male quando si perde che la soddisfazione positiva di quando si guadagna qualcosa. Questa è la natura umana, c'è poco da fare. Sì, però dobbiamo cogliere un elemento. Dovremmo riprendere dei percorsi anche di finanza comportamentale, magari, Marco, se mi aiuti con il nuovo anno. Ti aiuterò. Non sai quanto, guarda, faremo delle cose, ti anticipo in diretta che faremo delle cose straordinarie. Ottimo. Sì, basta che chiediate anche la mia collaborazione. Sicuramente. Infatti, tutti i gestori che abbiamo interpellato, oltre a segnalarci titoli, mercati, la prima cosa che segnalano è il concetto di diversificazione. Non esiste il prodotto, il titolo, il mercato che ti risolve tutti i problemi. La cosa più importante è diversificare e stare attenti a come si correlano gli strumenti che si mettono nel proprio portafoglio. Se vanno tutti nella stessa direzione è una diversificazione che non funziona. Ti metto subito in difficoltà su questo concetto, cogliendo al volo un'osservazione di Fabio, un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, d'accordo con la questione della diversificazione che stressiamo davvero ad ogni puntata, ma lui dice: un piccolo portafoglio di almeno o inferiore ai 100.000 euro, che è già un signor risparmio per molte famiglie italiane, non si può diversificare in maniera decente. È così? La diversificazione più è raffinata, è chiaro che richiede di un capitali sempre maggiori, ma sotto i 100.000 euro, diciamo fino anche a 50.000 euro, sono sufficienti per diversificare in maniera abbastanza adeguata un portafoglio, utilizzando per esempio diversi strumenti di risparmio gestito. I lotti minimi, per esempio degli ETF o dei fondi comuni, non sono particolarmente alti. Parla anche di 100 euro, per cui è possibile costruirsi un portafoglio diversificato anche con quantità di denaro non eccessive. Il punto è con quale criterio. Non esiste, come dicevo, un approccio miracolistico. Esiste un un semplice, umile, modesto artigianato della gestione del risparmio, che è un po' nella nostra cultura, ma la stiamo riprendendo e dobbiamo implementarla, dobbiamo cercare di svilupparla, perché bisogna stare attenti a non mettere insieme cose che, come dicevo prima, vadano tutte nella stessa direzione. Bisogna correlare le cose in maniera attenta, bisogna fare in modo che, per esempio, l'esposizione ad una valuta extra UE, cioè dollaro, franco svizzero, yen giapponese, sterlina, eccetera, possa essere protetta da uno strumento, se di risparmio gestito, possibilmente, far da soli è molto più complicato, e quindi stare molto attenti alle posizioni che si prendono. È cosa dei risparmiatori piccoli, così come dei grandi gestori, che devono amministrare non 100.000 euro, ma spesso 100 milioni di euro o anche miliardi, e che si trovano nella situazione di controllare tutto il mondo, ma poi dover fare delle scelte operative, compro, vendo, tengo, e quindi dare dei sì e dei no per le singole. Andiamo operazioni. A sentirne subito allora uno di questi. Fabrizio Fiorini, devo venire necessariamente da lei, che manovra ogni giorno tutte le cifre appunto che Marco Lo Conte indicava. Adesso naturalmente ci scherziamo sopra, ma effettivamente il vostro lavoro quotidiano è proprio questo: prendere delle decisioni di investimento, cercare di capire come poter far rendere al massimo appunto i fondi di investimento che gestite ogni giorno. Ma le chiedo di mettersi nell'ottica dell'ascoltatore che ci ha appena scritto, condizione nella quale si possono probabilmente ritrovare in molti oggi. Tra l'altro, molto risparmio delle famiglie italiane è immobilizzato anche nel settore immobiliare, molti hanno fatto altre scelte quest'anno cercando rendimenti più alti nei conti di deposito, negli strumenti estremamente liquidi, quindi molti hanno disinvestito da posizioni di altro tipo. Una diversificazione che si possa definire decente, come la chiama appunto Fabio, per portafogli ridotti. Qual è, secondo lei, dati anche gli insegnamenti che ci ha impartito il mercato quest'anno? Dunque, il concetto di diversificazione è sicuramente applicabile a un portafoglio anche di 100.000 euro, perché utilizzando strumenti come i fondi comuni, all'interno dei quali troviamo una grande diversificazione, questa è possibile anche per portafogli ben inferiori ai 100.000 euro. Il problema è che occorre chiarire, perché a volte si fa un po' di confusione, se sul risparmio si vuole una protezione del capitale o si vuole anche un rendimento, perché qui sennò mischiamo le cose. La diversificazione è ottima se si vuole preservare il capitale, perché la diversificazione ha di per sé il vantaggio di preservare il capitale, ma in genere, avendo uno strumento che compensa la performance dell'altro, si finisce per avere una performance complessiva che molto spesso non si allontana dallo 0% o dall'1% in contesti come quelli attuali. Facciamo un esempio: quest'anno il mercato migliore è stato quello giapponese con un più 17%, ma per un investitore europeo è stato il peggiore, perché la diversificazione valutaria avrebbe praticamente cancellato tutta la performance di quella azionaria. La performance sarebbe solo di più 3 e non di più 17. Quindi diversificare soltanto per diversificare rischia di portare a questi risultati. Se si cerca rendimento, invece, occorre scegliere tra un'ampia gamma di strumenti quello che nel corso dell'anno che verrà o del biennio che verrà può dare determinati risultati. Allora, in questo caso si ottiene un profilo di rischio diverso e si ha un obiettivo diverso. Quindi è importante per il nostro investitore chiarirsi e chiarire se il suo obiettivo è preservare attraverso la diversificazione o cercare il rendimento, il che è un po' in contrasto con il concetto di diversificazione. Devo dire che oggi dobbiamo inserire anche un altro elemento in tutte le considerazioni che vanno fatte a proposito della diversificazione, che è quella del costo degli investimenti, perché qua è stata completamente rimodulata negli ultimi mesi la tassazione sul risparmio, tema al quale abbiamo dedicato tantissime puntate del nostro programma, per cui effettivamente lì bisogna mettersi anche a fare dei conti un po' più certosini del solito, Marco, no? Per capire quanto la nuova tassazione, che per certi strumenti è diventata più incentivante, per altri più penalizzante, appunto quanto incide complessivamente su tutto il portafoglio. Prima di andare in pausa, un commento anche con Stefano Gianti, di analista di CMC Markets, al quale chiedo: allora, io sono Deborah Rosciani, ad inizio anno, in gennaio, avevo un po' di soldini, ho deciso di mettere 1.000 euro in borsa, 1.000 euro sul mercato obbligazionario, e naturalmente ho chiesto a lei di farmi tutta la diversificazione del caso per questo piccolo risparmio. Naturalmente tutto questo per arrivare, scherzando, a chiederle, insomma, questi 1.000 euro, a seconda del modo in cui ho collocato questo denaro, quanto mi hanno reso, Gianti? Beh, Chi avrebbe avuto il coraggio di investire 12 mesi fa nella Grecia sarebbe stato sicuramente il top performer dell'anno, perché comunque... Vabbè, lì era proprio un kamikaze, dobbiamo ecco, definirlo... Chi avrebbe avuto quel coraggio avrebbe fatto un 36% addirittura, quindi una performance strabiliante. Però attenzione alla Germania, che comunque nonostante la produzione industriale non sia in crescita, ha avuto un'ottima performance del 32%, quindi 1.000 euro investiti sarebbero diventati 1.320 addirittura. Poi se invece una persona, soprattutto i nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo, molto più facilmente hanno detenuto in portafoglio i BTP. I BTP hanno avuto una resa in media del 18%, considerando l'apprezzamento che c'è stato proprio da dicembre dell'anno scorso. Come tu stessa, Deborah, citavi prima, proprio 12 mesi fa abbiamo avuto un'asta a 3 anni con il rendimento massimo storico al 7,89%. Aggiungerei anche che il 9 novembre dell'anno scorso, il giorno apice della crisi di quando abbiamo sperimentato i 575 punti base di spread, così esatto, tanto per rievocare momenti difficili. Esatto, il semplicissimo bot a 12 mesi rendeva il 9%, proprio ieri invece abbiamo avuto un'asta allo 0,9%, quindi questo ci fa capire quanto i prezzi dei nostri BTP siano saliti. Se invece andiamo sui paesi emergenti, perché facilmente quando si parla di diversificazione molti hanno in portafoglio alcuni ETF sui mercati emergenti, questi hanno reso in media il 13% con dei picchi sull'India addirittura che si è avvicinata al 25% di performance, molto meno invece ha fatto la Cina con soltanto il 9%. Bene anche la nostra nazione con l'azionario, con una buona performance dell'11%, però qui l'investitore sull'azionario italiano deve essere stato molto coraggioso, perché i 1.000 euro investiti il 2 gennaio del 2012 sarebbero diventati soltanto 700 con i minimi di maggio, poi da lì c'è stato un grosso rialzo di tutte le borse mondiali, quindi sull'azionario comunque c'è stata moltissima volatilità, soprattutto in Italia e ovviamente Spagna. La Spagna che è stata l'unico listino che non ha avuto una performance positiva nell'anno, prossima allo 0%, oggi siamo soltanto al meno 1%. Quindi... Tra l'altro le piazze con le performance più interessanti, a parte Francoforte, poi chiaramente l'Italia che l'ha concentrata soprattutto nell'ultima parte dell'anno, saranno probabilmente ancora le piazze da monitorare attentamente l'anno prossimo con le campagne elettorali che domineranno l'attenzione generale nostra e un po' di tutti, anche economisti, investitori e quant'altro. Allora ci dobbiamo fermare, vi chiedo un minuto di pazienza perché andiamo in pubblicità, poi rientriamo e magari anche con qualche considerazione di qualche ascoltatore, cominciando con Fabio dalla provincia di Padova, che è già pronto a chiederci così qualche suggerimento e qualche orientamento possibile per il prossimo anno. 800 24 00 24, per continuare a prenotare i vostri interventi, vi aspetto tra pochissimo. Salva Danaio. Oggi gli ascoltatori di Salva Danaio sono particolarmente timidi, forse perché si parla dei propri risparmi. In tantissimi ci scrivono, un po' meno ci telefonano o forse sono un po' in giro per le ultime compere prima del cenone di Capodanno. Detto questo, a parte gli scherzi, ci sono tanti ascoltatori appunto che stanno di nuovo ritornando su un tema che abbiamo così toccato solo velocemente nella prima parte del programma: come investire, come diversificare al meglio per proteggere il proprio investimento e se si ha l'opportunità anche per fargli rendere qualcosa, e quindi magari mettersi in una posizione anche un pochino più aggressiva se si può. E in molti chiaramente considerano che oggi, come dice Carlo, giustamente sintetizza queste posizioni per tutti, il discrimine per gli investimenti sono i bolli, le tasse, le commissioni che ti mangiano gli interessi, e allora se hai qualche soldo ti viene voglia di comprare oro e altro che non mangia nulla, caro Marco Loconte. Piano piano, l'oro ha corso molto, ha anche subito delle pesanti flessioni nel periodo, è uno strumento, vabbè, che luccica, ma questo non basta per metterci, come dire, farci sentire tranquilli e per mettere l'oro nel nostro salvadanaio in modo tranquillo. Non può essere messo a confronto con un conto corrente. È vero, i bolli pesano e pesano in maniera rilevante. Da inizio anno c'è un ritocco al rialzo dei costi. Noi abbiamo raccontato qualche settimana fa un dato che era apparso, cioè che non era apparso evidente di più: costa di più la mini patrimoniale sul risparmio che l'IMU, per gli italiani. Ed è questo, mentre tutti urlano perché hanno la casa e quindi devono pagare, magari ne hanno tante di case. È lì il problema, pagano perché tanta, è la seconda e la terza, non perché è la prima casa, perché l'IMU sulla prima casa è stata stracontenuta e questo nessuno lo dice. Sui risparmi e sugli investimenti l'imposta e il prelievo è rilevante. Ciò detto, questo deve essere, al di là di quello del significato della fiscalità, della nostra vita, del debito pubblico, il pagamento degli interessi, siamo legati a questi obiettivi. Però questo deve essere uno stimolo per cercare di ottenere dei rendimenti adeguati, per cercare di guadagnare il dovuto, perché se no tanto vale veramente mettersi i liquidi, ma non con l'oro. Ci si mette i liquidi sul conto corrente, si evitano altri tipi di problemi, si pensano, però si deve pensare veramente quali sono le proprie priorità, la pensione, la sicurezza della vita quotidiana che viviamo oggi e vivremo in futuro quando saremo non saremo più tanto giovani. Sono questi gli obiettivi a cui dobbiamo pensare. Allora, un ascoltatore ci scrive: la situazione dei debiti è scesa, forse lui vorrebbe dire, insomma, qui ci siamo un po' tranquillizzati in quest'ultimo frangente dell'anno e quindi l'anno sarà positivo. Fabrizio Fiorini, vengo da lei per commentare se ritiene l'esito dell'asta dei titoli di Stato di questa mattina con il Tesoro italiano, che ha collocato quasi 6 miliardi di euro di BTP a 5-10 anni con rendimenti in leggera risalita rispetto all'ultima asta di novembre. Anche lo spread ha intenzione di terminare l'anno senza dare soddisfazione al premier uscente Monti, che lo avrebbe voluto sui 270 punti base, la metà del livello su cui si trovava quando lui si è insediato, ma ha intenzione appunto di rimanere ben al di sopra dei 300 punti base, sui 325 come era questa mattina. Noi chiudiamo un anno che è stato vissuto assolutamente pericolosamente per il debito italiano. Quali sono le attese sul 2013? Si ricorda, Spanne, quanto dovrà collocare il Tesoro italiano, di quante risorse ha bisogno e secondo lei appunto con che tipo di clima si presenterà sui mercati il Ministero dell'Economia? Io sono molto fiducioso sul 2013. Chiaramente è impossibile riproporre una performance simile a quella dell'anno scorso, perché il livello dei rendimenti è più basso, perciò le possibilità di performance non sono paragonabili, però ritengo che ci siano ancora spazi. L'obiettivo del Premier Monti di 287 punti base penso sia tranquillamente alla portata. È ovvio che in termini di investimento personale quello che conta è quale sarà il livello assoluto del tasso del decennale italiano piuttosto che non della parte breve italiana. Io ritengo che il 4,50 attuale non potremo vedere ben presto, già nella prima parte del 2013, rendimenti anche vicino al 4,25 e, perché no, anche vicino al 4, dipenderà molto dall'esito delle elezioni politiche, però io penso che il trend sia scendere per i rendimenti italiani, dopodiché andremo a vedere quale crescita economica supporterà eventualmente il rientro del debito, ma dal punto di vista della performance io penso che ci siano ancora spazi, è un ottimo investimento in BTP, rimane una delle possibilità più interessanti per il 2013 insieme all'azionario europeo, che ritengo che beneficerà del migliorato clima in Italia, in Spagna, in Europa per quello che riguarda i periferici e anche dal punto di vista della crescita globale, probabilmente una stabilizzazione ci dovrebbe aiutare sia sul fronte dei tassi di interesse che delle borse europee. Manteniamo allora la nostra attenzione sui tassi di interesse con la domanda del primo ascoltatore di oggi, che è Giacomo da Bari. Giacomo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signora Rosciani, e buon grazie anno. Di avermi chiamato, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie Giacomo, ci dica. Volevo un attimo sapere il parere dei vostri esperti sulle probabile evoluzione dei tassi in area euro per il 2013, per quanto se ne possa sapere. Giacomo, la ringrazio. Tassi di interesse a 360 gradi. Vado un attimo dal nostro amico Stefano Gianti di CMC Markets per chiedergli che cosa ne pensa, che previsioni si possono fare. Tassi di interesse intanto per quello che riguarda le obbligazioni collocate sul mercato da parte dei paesi. Molto ridimensionamento della corsa dei rendimenti negli ultimi mesi c'è stato grazie alle grandi operazioni di sostegno condotte dalla Banca Centrale Europea, tanto che Mario Draghi si è guadagnato le copertine, come sapete bene, nei tutti i più grandi giornali economici al mondo. E come ci muoveremo ancora, Gianti, secondo il suo avviso, e soprattutto secondo lei per sostenere l'economia e la crescita, che è la grande assente dalle previsioni di tutti? Da quello che capisco, la Banca Centrale Europea interverrà anche sui tassi di interesse riducendoli ulteriormente, secondo lei? Abbastanza probabilmente avremo un ulteriore taglio dello 0,25% nei primi tre mesi dell'anno, questo è abbastanza certo. Purtroppo questo abbiamo visto che non impatta moltissimo sui mutui, perché tutto sommato le banche stanno continuando a concedere prestiti col contagocce e con tassi ancora abbastanza alti, se pensiamo che i tassi in Europa sono... Perché sono gli spread bancari che sono alti, perché sennò le Euribor, i tassi di riferimento sono veramente rasoterra. Se dovessimo considerare solo quelli, i prestiti sarebbero straconvenienti, invece il ricarico che mette la banca che è altino, sì. Esatto, invece proprio negli Stati Uniti il rilancio dell'economia, comunque abbiamo un PIL prossimo al 3% negli Stati Uniti, è partito proprio dal settore immobiliare. In America i mutui nel lungo periodo vengono concessi al 3,30%, quindi questo sarà ancora da perfezionare in Europa. Comunque Draghi è stato proprio bravissimo quest'anno, soprattutto in una conferenza che ha tenuto a Londra da luglio, a sottolineare che l'euro sopravviverà e la Banca Centrale Europea farà tutto il necessario. Infatti poi con l'invenzione di settembre del piano OMT ha fatto ridare completamente fiducia ai mercati, in particolar modo al mercato obbligazionario. Infatti poi vediamo da come metà novembre le borse siano ripartite proprio sull'ottimismo. Quindi sono anch'io concorde con la visione di Fabrizio, che si esprimeva ancora per un rialzo degli listini azionari nel 2013. Tra l'altro ricordiamo che il Dow Jones, ovvero il maggiore indice americano, è non lontano dai massimi storici del 2007, quindi potremmo vedere nei primi mesi dell'anno un riaggiornamento di quei massimi storici. Attenzione ovviamente al mese di gennaio, che storicamente inizia per le borse con un segno meno, soprattutto dopo la corsa di questo anno e mezzo. Vabbè, siamo stati tutti avvisati, per cui adesso cercheremo subito di capire se le vostre previsioni di brevissimo termine saranno azzeccate o meno. Marco Loconte, prima di sentire ancora un paio di ascoltatori e poi andremo a collegarci anche con Saxo Bank Italia, con l'amministratore delegato Gianpaolo Bazzani, ma sul fiscal cliff che cosa ti hanno detto? Che cosa vi hanno detto i gestori interpellati per la vostra inchiesta di domani? Beh, insomma, c'è molta prudenza perché l'approccio è questo: non è possibile che non facciano un accordo, perché il pericolo è tale che l'accordo è inevitabile. Disoccupati senza più sussidi, imprese senza più incentivi fiscali, quindi arriverebbe veramente il maremoto, uno tsunami finanziario americano senza precedenti. Ma non c'è come sottostimare un pericolo, che il pericolo si presenta. Per cui questa considerazione, che è il cigno nero di Taleb di qualche anno fa, è ben presente nella mente di chiunque gestisce i portafogli. Per cui una guardinga attenzione al fatto che il patatrac, magari a rate, nel senso che potrebbe esserci un rinvio dell'accordo eccetera, sia nei fatti, è preso in considerazione. Tutti considerano l'inevitabilità dell'accordo, è di queste ore la possibilità di un accordo, bisogna conoscere anche i dettagli. È abbastanza credibile che ci sia una discussione anche nelle prossime settimane, cioè inizio 2013, quei dettagli che incideranno in vario modo sugli incentivi fiscali per i consumatori e per le imprese, con tutte le ricadute per l'economia mondiale, che per buona parte dipende ancora dal comportamento del consumatore statunitense. Allora, intanto ci ha raggiunto telefonicamente Gianpaolo Bazzani, amministratore delegato di Saxo Bank Italia. Bazzani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Le chiedo ancora un paio di minuti di pazienza perché vorrei sentire ancora una domanda di un ascoltatore, poi abbiamo la pausa e poi andiamo alle 10 previsioni scioccanti per il 2013. Fabio dalla provincia di Padova, che ho lasciato lì decantare un po'. Fabio, buongiorno, benvenuto e buon Natale e anzi buone feste. Buongiorno anche a voi e a tutti quanti, auguri. Ci dica. Senta, io le volevo fare una domanda più di carattere generale che può interessare parecchi italiani, penso. Non interessa a me, perché io da quando sono invalido percepisco solo 270 euro al mese, quindi non ho la possibilità di investire, però penso sia di interesse generale. Volevo sapere gli investimenti in oro come funzionano. Allora Fabio, si può comprare l'oro fisico, si possono comprare i lingottini, si possono comprare le monete, ci sono tanti operatori specializzati sul settore, si possono comprare degli strumenti di investimento legati all'oro, sono più sofisticati i fondi di investimento, si possono comprare le società aurifere, ci sono miriade di opportunità, però non è il tema di oggi. Se lei, visto che questo è un suo desiderio, possiamo risponderle privatamente, cercheremo magari un consulente che le faccia una risposta articolata, e se questo è ancora il vostro desiderio, conoscere come si fa ad investire sul metallo giallo, che ancora viene considerato, come dire, investimento che garantisce una grande protezione al nostro denaro, allora tenteremo di riorganizzare una puntata al più presto. Ci fermiamo però sull'oro. Bazzani forse qualcosa ce lo può già dire, Giampaolo Bazzani, perché questo è un tema che è oggetto di una delle 10 previsioni shock di Saxo Bank. In questo momento viaggia sui $1,700 l'oncia, è arrivato anche sui 2,000, e che cosa potrebbe succedere nel 2013? Allora, potrebbe capitare, e l'abbiamo scritto nei nostri eventi, poco probabili ma sicuramente scioccanti per il mercato, che l'oro abbia una drastica discesa e arrivi a $1,200 per oncia. Però $500 di ribasso, data la volatilità a cui l'oro in qualche fase ci ha abituato, appunto, non è che sia poi uno scenario così improbabile che si verifichi. Magari in un paio di mesi può anche farlo, per poi riprendere e ritornare anche a 2,000 senza problemi, Bazzani. È proprio scioccante? Scioccante senza dubbio, forse poco probabile, ormai è diventato improprio. La prossima volta che ci incontriamo magari parleremo di un oro attorno ai $1,000. Ah, benissimo, addirittura forse siete già avanti con le previsioni sul 2014. Ci fermiamo adesso, suggerimenti per chi è in viaggio, e poi andiamo a Giovanna da Livorno e ritorniamo alla nostra, come dire, possibile asset allocation, dove collochiamo il nostro risparmio l'anno prossimo. Tra poco. Salvadanaio. Allora, un salvadanaio all'intesa come al solito del bilancio di fine anno, come sono andati i mercati quest'anno. Vi abbiamo stressato tanto con questi argomenti perché chiaramente abbiamo monitorato soprattutto il debito italiano con grande attenzione e gli scenari nuovi che si sono delineati in Europa quest'anno con questa crisi molto forte del debito sovrano del vecchio continente. E alla luce di quello che è accaduto, il clima sembra un po' più tranquillo per il prossimo anno, però anche la crisi degli ultimi anni, che ormai dura imperterrita dal 2007, ha insegnato che la guardia non va mai abbassata, perché poi la sorpresina è sempre dietro l'angolo. Adesso ci facciamo raccontare le 10 previsioni shock di Saxo Bank per il 2013, però prima la domanda di Giovanna da Livorno. Giovanna, buongiorno e buone feste. Buongiorno e buone feste anche a lei. Io da Imperia sono capitata a Livorno. Ah! Giovanna da Imperia, lei ce lo ricorda. Ci scrive tantissimo lei, Giovanna, qua, molti messaggi, vero? Molto. Allora, dunque, la mia domanda è questa. Volendo investire una certa parte sull'azionario, non in modo diretto, ma attraverso un risparmio gestito, all'infuori dell'Europa, che appunto secondo le previsioni appena ascoltate è abbastanza tranquilla come futuro. Quindi lei non vuole navigare in tranquillità, si vuole prendere un po' di rischio, Giovanna? Sì, perché il resto, che diciamo la tranquillità, l'ho messa a buon frutto sull'obbligazionario, comprando a suo tempo, quando erano ben scesi, i titoli di Stato. Ho avuto fortuna. Ha seguito il mercato, sa come funzionano, se i prezzi scendono qualche occasione bisogna anche coglierla, no? Come quando ci sono i saldi, gli sconti. La mia necessità è questa: volendo diversificare all'interno della diversificazione, escludendo l'Europa, sulla quale appunto già avete detto le vostre opinioni, l'America ha i problemi che sappiamo e speriamo li risolva prima del 31 dicembre, la Cina ha quel rallentamento che ormai tutti sanno, il Brasile ha capito un volato e speriamo che risolva. Insomma, quali aree rimangono un pochino meno rischiose, anche se diciamo in questa prospettiva c'è sempre un po' di rischio. Ovvio, certo. Quali sono comunque le aree mondiali più promettenti? Fabrizio Fiorini, un attimo con lei, poi vado a Marco Lo Conte. Direi che nonostante i problemi giusti individuati dalla signora, io penso che ci sia una possibilità con qualche accorgimento, ovvero il mercato azionario americano a cambio coperto può dare una buona performance, il mercato giapponese a cambio coperto può dare un'ottima performance, però è importante che siano coperti i rischi di cambio, altrimenti si vanifica probabilmente tutto ciò che di buono viene dall'indice, e invece a cambio aperto, cioè con il rischio di cambio, l'indice emergente è più allargato, perché è vero che Cina e Brasile hanno problemi, ma nel complesso gli emergenti qualcosa possono dare con la stabilizzazione economica, ma lo possono dare soprattutto sulle divise. Quindi occorre diversificare a cambio aperto, e quella è l'unica alternativa a cambio aperto che metterei in portafoglio. Marco Lo Conte, tu hai qualche suggerimento, perlomeno i tuoi gestori, di fronte ad una domanda come questa, come risponderebbero? Beh, abbastanza analogamente con quanto diceva Fabrizio poco fa, perché l'approccio deve essere appunto globale, diversificato. Le aree da sole dicono fino a un certo punto. Per esempio, i paesi emergenti sono i BRIC, cioè Brasile, Russia, India, anche belli Cina. Che emersi, direi ormai. Ormai belli che emersi. Però ancora molte potenzialità inespresse. La Cina adesso sta puntando tutto sul mercato domestico e voglio dire, non è che sia un'opportunità da non cogliere. Se quel paese comincia a crescere alla grande all'interno, per esempio, che tipo di sviluppo porterà. Per esempio, lì si tratta di capire lo strumento. Un ETF replica gli indici di quelle borse, per esempio di Mosca o delle borse cinesi. Vuol dire fotografa l'attualità. Un risparmio gestito invece prende posizione su quello che sarà la Russia e la Cina da qui a 5 a 10 anni, per cui prende delle posizioni che sono più profittevoli proprio nell'ottica di un maggiore consumo interno. E poi nuovi paesi emergenti, quindi Indonesia, Vietnam, Laos, piccoli paesi, paesi che anzi stanno uscendo dalla categoria dei paesi in via di sviluppo, sono guardati con molta attenzione dai gestori che abbiamo interpellato, che hanno dato qualche indicazione. Chiaro, risparmio sempre attraverso un risparmio gestito, attivo, con attenzione alle valute, in maniera molto diversificata. Sugli Stati Uniti ci sono opinioni diverse. Visto che è cresciuta molto Wall Street negli ultimi tempi, qualche presa di profitto non episodica forse da mettere in considerazione, però anche lì l'immobiliare, nonostante tutto ciò che è successo, è visto in grande recupero, e quindi questa è un'indicazione importante. Allora, Gianpaolo Bazzani, finalmente vengo a lei. Facciamo una suddivisione per appunto individuare le situazioni più scioccanti che si potrebbero verificare nel 2013, chiaramente casi estremi, ma all'interno degli uffici studi, delle case di investimento, naturalmente tutti gli scenari possibili si prendono in considerazione, anche i peggiori, affinché non ci si trovi impreparati. Sul mercato azionario, che cosa di sorprendente potrebbe accadere, anche se il livello è improbabile? Noi ci sforziamo tutti gli anni, lo facciamo ormai da un decennio, di definire, come riepilogava bene lei, scenari poco probabili ma di effetto scioccante dovessero avverarsi. Dal punto di vista dell'azionario, un effetto shock sarebbe senza dubbio un drastico ridimensionamento, un vero e proprio crollo anche di un terzo del valore attuale del DAX, quindi dell'indice azionario della borsa tedesca, esattamente. Questo per una situazione che chi mi ha preceduto ha già fotografato, quindi un rallentamento economico della Cina che quindi frenerebbe l'espansione industriale di uno dei suoi principali fornitori, cioè la Germania, un crollo dei prezzi delle azioni, uno scenario di crollo della fiducia, con un impatto anche politico, un crollo del consenso dell'attuale premier tedesco proprio prima delle elezioni, quindi una generale situazione di debolezza che toccherebbe l'indice DAX in maniera molto significativa. La previsione numero 9 mi interessa particolarmente. La Spagna si avvicina al default perché i tassi di interesse salgono al 10%. Allora, adesso c'è l'aiuto delle istituzioni finanziarie internazionali, la Banca Centrale Europea che interviene ripetutamente. Se non ci fossero questi interventi, non è che per la Spagna ci sarebbe una situazione diversa, perché è molto vicina ad una condizione di fallimento questo paese, Bazzani. Che cosa c'è di scioccante in questa previsione? Allora, innanzitutto di poco scioccante c'è il fatto che sia la Spagna, e di questo ringrazio il nostro ufficio studi, per una volta non hanno voluto includere l'Italia. Infatti sarebbe stata la mia terza riflessione, poi ci andiamo, comunque l'hai anticipato, sì. Non è un'ipotesi del tutto remota, del tutto fantasiosa nello scenario che ci ha portato il 2012. Sicuramente la Spagna è in una situazione molto molto più difficile rispetto a quella dell'Italia, nonostante la cronaca giornalistica non l'abbia enfatizzato. Una situazione, soprattutto una bolla speculativa, una bolla immobiliare che l'Italia non vive. E il fatto che l'aiuto alle banche spagnole sia stato così generalizzato e così massivo sin da ora, evitando e precludendo la possibilità di un secondo intervento. Questo pone la Spagna, come diceva lei, in una situazione di default che non è più un fatto teorico, e quindi l'abbiamo sì incluso nei nostri cigni neri, le previsioni scioccanti, ma forse anche qualche altra casa di investimento l'ha incluso negli scenari più probabili. Un po' più probabili. Poi avete toccato anche il mondo valutario, ma le chiedo un'ultima riflessione molto breve, se ce la fa, sul petrolio, perché addirittura ipotizzate che possa scendere fino a $50 al barile, il WTI, il greggio americano. 10 secondi, Bazzani. Allora, la produzione di petrolio degli Stati Uniti potrebbe teoricamente aumentare, il livello di scorte, perché si sono abbassati i consumi, è già al massimo, il combinato disposto di questi due fattori potrebbe portare a un quasi dimezzamento del prezzo in dollari del barile di petrolio. E allora, noi con grande attenzione cercheremo di osservare queste dinamiche il prossimo anno per verificare appunto se qualcuna di queste previsioni appunto si dovessero verificare. Grazie molto a Giampaolo Bazzani, a Fabrizio Fiorini, a Stefano Gianti per essere stati con noi. Auguro a loro naturalmente una buona fine d'anno, ci risenteremo probabilmente ancora nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Marco, auguri anche auguri, a te, auguri, a tutta auguri, la redazione auguri. Di Plus, e ti dico solo che a 9 anni dalla conduzione di questo programma c'è ancora qualcuno che ti saluta al 349-238-6666. Ricorda con nostalgia quando Salvadanaio lo conducevi tu, per cui devo richiamarti ancora più spesso l'anno prossimo. Volentieri. Grazie a tutti, ci risentiamo con la puntata naturalmente del 31 dicembre. A tutti buon weekend.